Palla Spicchi con Carlo Genta. Buongiorno a tutti, ciao Flavio Suardi. Ciao Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi è a New York City, coach Dan Peterson. Coach, buongiorno. Ciao bambini, ciao amici sportivi da New York City, the Big Apple, la grande mela. Ciao a tutti. Beato te. Due allenatori, oggi abbiamo qui coach Dan Peterson e un altro allenatore per i quali il suono Maccabi Tel Aviv sarà dolcissimo, credo, per tutta la loro vita. Perché coach Dan Peterson l'ha vinta nell'87, Franco Casalini nell'88 a Gand. Naturalmente la coppa che assomigliava a un cestino, la più bella. Ciao Franco, grazie. Ciao. Non vi offendete se vi chiamo adesso commentatori cult, vero? no, per niente. Che altro potremmo essere? Coach, sei stato al Madison, naturalmente. Yeah, Madison una buona partita, 106-104 per Toronto. Bellinelli, Bargnani non in serata. Ovviamente anche Bargnani bisogna dire che ha un problema, proprio uno sperone sul piede, e quindi non è, quando lui deve fare due partite in due notti non è al 100%. Ieri non è stato per niente un fattore, anche se ha fatto una stoppata importantissima su Harrington alla fine. Bellinelli non è entrato in partita, Danilo bene, ma come succede sempre loro dimenticano, non vedono Danilo verso la fine della partita, e i New York Knickerbockers hanno una squadra con forse meno intelligenza, quoziente intelligenza cestistica sulla faccia della terra. Loro inventano maniere di buttare via la partita. Era 32-16 per New York e sono riusciti a buttare via la partita, ma non una volta, ma tre volte, con Robinson e Harrington che alternano un grande canestro con un'idiozia da plotone di esecuzione, cioè, per gente come me e Casalini che sappiamo cos'è vedere un giocatore giocare bene, vedere loro giocare, è un suicidio. Stavo pensando esattamente la stessa cosa, però le cifre: Gallinari 18 punti, 2 su 6 da 2, 3 su 6 da 3 punti, ha aperto con la partita con un canestrone Danilo, 5 su 5 liberi, 7 rimbalzi, 3 assist, 2 recuperi, Bargnani 2 punti, molto male al tiro, 1 su 9, Franco tu e Dan Peterson con una squadra come New York di quest'anno, non so se resistevate più di tanto prima dell'esaurimento nervoso, della camicia di forza. Beh, dipende, se c'era D'Antoni playmaker andavamo avanti 10 anni anche lì. Sì, se però avevi playmaker, quelli che ha D'Antoni adesso. Appunto, magari avremmo avuto qualche problema di ricovero ospedaliero prima. Disegni i giochi e questi fanno... disegni il gioco per Danilo contro i Boston Celtics, sì. Ti ricordo, disegni il gioco per Danilo, questi prima che prende la palla tiro da 7 metri e mezzo. Ma quello credo sia uno dei problemi principali dell'NBA, perché è diventato un campionato di giocatori o di procuratori, a dirla nel modo più negativo, e non più di allenatori, quindi si vede un basket molto più, diciamo così, approssimativo, chiamiamolo così. E voglio chiederti questo, coach, Danilo dal vivo, chiaramente sarà diverso che vederlo in televisione, dal punto di vista fisico come l'hai trovato, ecco, nell'impatto con l'NBA? No, innanzitutto lui è cresciuto 2 centimetri durante l'anno, è 2,10 adesso, ok? Cioè 6,11 in americano, sei 6 piedi e 11 pollici, cioè è veramente è un 2,10, ok? Non è 2,6, 2,7, 2,10, l'ho visto io da persona. E lui veramente è altissimo adesso, è aggiunto in un anno, lavorando con molta pazienza, non esagerando, 6-7 kg ma di muscoli, ok? Cioè, e non si nota tanto, tranne quando arrivi vicino a lui, hai capito? E poi ti rendi conto che lui veramente è più forte fisicamente, anche fa le entrate adesso con un po' più di forza, anche se loro seguono in due quando lui entra. Però è veramente un giocatore di NBA, e insieme a David Lee è il miglior giocatore della squadra, assolutamente, è uno che, sono gli unici due, più Danilo, che giocano con il cervello, come dice Franco, una lega per i giocatori, se ne fregano, se posso dire questo in onda, di quello che dicono gli allenatori, la logica, eccetera, cioè, la palla in mano, ci penso io, ci faccio io, cioè non hanno... gli schemi valgono poco, perché all'inizio della partita, quando i Knickerbockers hanno eseguito gli schemi di Mike D'Antoni, compagnia 32-16, giocavano da Dio, tiri smarcati, giocavano bene, poi dopo entra Harrington. All'inizio del secondo quarto, fuori Danilo, dentro Harrington, notte fondo, cioè gli altri sono arrivati a meno 2, da meno 16 a meno 2 in un niente, ok? Quindi Harrington è un giocatore di super talento, negativissimo, un perdente con la P maiuscola, e idem per Robinson. Quando li vedi di vicino in persona non ci sono più dubbi. Sì, giocatori tutti in scadenza di contratto e sanno benissimo che l'anno prossimo per rinchiostrare vanno a prendere le cifre e dicono ok, cosa hai combinato tu questa stagione? Guardano le cifre, sulla base di quello gli faranno un nuovo contratto da un'altra parte. Alla fine dell'anno loro prendono il primo aereo che o vanno a JFK o vanno a Newark, uno dei due aeroporti, ma partono assolutamente Al bocca al lupo dove vai, perché veramente loro Harrington ieri è stato veramente, cioè se fossi in Italia giocando per Casolini, giocando per Peterson, alla fine della partita, ma neanche andare in albergo e forse il nostro cappellare, ancora il nostro general manager, lui era già tagliato. Grazie, okay. Coach, buona New York. Ciao ragazzi. Ciao Daniel. Ciao, un abbraccio. Frank, c'è chi dice che, ad esempio Flavio Tranquillo, che poi sentiremo, che questo Danilo Gallinari può diventare il più devastante secondo violino di questa NBA. Come la pensi? Non ho capito il secondo violino. Secondo violino dietro un primo violino che potrebbe essere LeBron James. Sono assolutamente d'accordo. Io dico da tempo, perché secondo me anche quando era ancora in Italia, che se c'è un erede di Larry Bird al mondo è lui, perché ha tutto quello che aveva Larry Bird, compreso la non formidabile, è già meglio, ma non la formidabile prestanza fisica di Larry Bird, ma lui gioca al basket di cervello, di talento, di fantasia, di lettura, molto più di quanto non facciano quasi tutti gli altri che giocano di fisico oppure di tiro da 100 metri, ed è per questo che dico che lui è, per me è un giocatore unico al mondo. In questo momento, ma più che altro in prospettiva, adesso mi auguro tanto che possa farlo, perché dipende da tanti fattori diventare Larry Bird. Vedi margini di crescita sconfinati, naturalmente. Sì, è proprio quello, perché se dopo praticamente il primo anno, l'anno scorso ha fatto niente, se già il primo anno fa quello che fa, voglio dire, quando avrà anche come diceva prima Dan, alla fine non gli danno la palla, quando alla fine gli daranno la palla, perché avrà acquisito il diritto di farsi dare la palla, il dovere degli altri di dargliela, come era ai tempi con Larry Bird, per me è di quel livello lì. Palla spicchi. Con noi Franco Casalini. Prima dicevo del suono dolce Maccabi Tel Aviv, perché poi, anzi ora, tra pochissimo naturalmente, parleremo anche di Siena, che ha aperto con grande sofferenza, ma con una vittoria fondamentale, il cammino del top 16 in Eurolega, proprio per Maccabi Tel Aviv, che Siena mai aveva battuto nella sua Eurostoria. Volevo però chiudere il capitolo, chiudere per riaprire con voi, se ne avete voglia naturalmente, il capitolo NBA di Gallinari. Si è detto, Bargnani era giocato molto male, però Franco è credo uno dei giocatori più progrediti in questa stagione. Beh, ormai è un giocatore del campionato, voglio dire, è uno di quelli che fanno le partite dopo 3 anni e mezzo, mi pare, il terzo anno e mezzo, no? Ecco, ha acquisito uno status per avversari, compagni, arbitri, allenatori, stampa, media, pubblico, per cui è uno della Lega. E allora poi la giornata storta può capitare a tutti, però per dire è un giocatore come Hawkins in Italia, come, che ne so, Diamantidis in Europa, cioè è un giocatore della Lega, è quelli che fanno le partite. Io volevo chiederti questo, coach. Tu hai detto prima che il campionato NBA è diventato sempre di più il campionato dei giocatori. La settimana scorsa noi abbiamo avuto Bruno Arrigoni qui ospite nei nostri studi, che invece ha detto che... Ma salutatemelo. Lo faremo sicuramente. Che ha detto che invece in Italia abbiamo una classe di allenatori che non vuole gestire ma vuole sempre più allenare, che quindi l'allenatore è il vero leader della squadra. In questo senso è una contrapposizione interessante, direi, tra Italia e... Se lo dice Bruno, che lo vede dal di dentro, ne sono felice. Io so una cosa, e lo dico da tempo, che la classe tecnica italiana è la migliore del mondo, e dico mondo non a caso. Adesso c'è da vedere l'NCAA, che ha una diversa storia, una diversa cultura, però per come vedo io, adesso naturalmente il campionato thailandese non lo conosco benissimo, mi manca la serie C2 del campionato thailandese, come si è messo quello cinese, invece il cinese lo conosco come le mie tasche. Però per dire, in Europa una classe tecnica come quella italiana, a cominciare, a parte Scariolo e Messina, che sono campioni d'Europa a vario titolo e con varie possibilità e sono all'estero, ma da Simone Pianigiani in giù e Sagripanti e Becchi e Bucchi e Lardo e potrei andare avanti per ore, mi scuso con quelli che non ho citato per motivi di tempo. Non c'è in Europa un'altra tanti e così bravi allenatori di basket come li abbiamo noi, allenatori che insegnano, cioè più che insegnano, gestiscono gruppi di professionisti il più eterogenei possibili e li gestiscono facendoli giocare, perché onestamente non è solo, fortunatamente c'è una certa tendenza a non essere più solo palleggio palleggio tiro oppure palleggio palleggio palleggio pick roll tiro, è già un po', si sta evolvendo il basket e questo per me se è d'accordo con quello che ha detto Bruno Arrigoni, sono perfettamente d'accordo, credo di sì. Io coinvolgerei anche gli ascoltatori che sono già in linea. Massimo da Cremona, Maurizio, provincia di Torino, vi ricordo, contatto 800 24 00 24. Visto che ho il cartello sotto gli occhi, vi ricordo anche che questo, come tutti gli altri programmi, potrete riascoltarlo sul nostro sito, peraltro nuovo, totalmente rinnovato, www.radio24.it, così l'ho detto, testimone Flavio Suardi. Massimo, provincia di Cremona. Massimo Cremona, scusi. Massimo, sì. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo fare prima di tutto i complimenti all'Armani Jeans, perché sabato sera ha vinto una partita incredibile. Chiuso questo. Mi ricordano i tempi di quando c'era Coach Casalini. Sì. Da altri tempi, in sette. Non si vede da tanto tempo, sì, si vede giocare a pallacanestro con sette giocatori. E visto che stiamo parlando di sette giocatori, domenica la Vanoli, stando a quello che c'era ancora stamattina sul giornale, giocherà in sette più tre, diciamo così, rincalzi, sì, contro la Lottomatica. Ora mi chiedo, d'accordo, ci sono stati dei problemi con Forbes, che secondo me è stato il più grande talento che abbiamo visto a Cremona, non ne abbiamo visti tanti, però potenzialmente era un talento incredibile. Aveva senso tagliarlo senza avere firmato nessun altro? In un periodo così della stagione dove tutti si sono rinforzati, noi ci siamo indeboliti? Sono, io credo, le crepe del mercato. Probabilmente non aveva senso, probabilmente è una questione di tempistica. Poi sai, in questi giorni, anzi oggi, vediamo la Juventus che cambia allenatore, è arrivato Zaccheroni a Torino, fa allenamento, non fa la conferenza stampa, insomma. No, la pare la faccia. La fa? Sì, alle 17. Qualche crepa organizzativa anche lì. Credo siano proprio strettoie regolamentari. Certo che Cremona adesso si trova a non poter più regalare niente, domenica giocherà con la Lottomatica senza un americano. Forse deludente, tra i più deludenti in questa prima parte di stagione. No, Franco, cosa dici? Ma guarda, lì, a parte che come sempre bisogna essere dentro per sapere quali sono gli equilibri e le chimiche giuste per il gruppo, delle volte sottrarre è molto meglio che addizionare o sostituire, quindi magari senza Forbes gli altri si stringono di più, è già successo in tanti altri casi, mi ricordo l'anno scorso con Forte a Bologna. Sì. Lo fecero fuori per una partita, forse comunque lo emarginarono e vinsero una delle poche partite dell'anno scorso. Beh, ma senza andare lontano, a parte quello, Milano, l'ascoltatore, sì. Milano è cresciuta per sottrazione. No? Beh, lì è per infortunio, sai, una cosa diversa. Sì. Perché in tempi brevi, meno 6 meglio è, sono abbastanza fandonie. Quelle che si dice il turnover, giocare in 10, non è vero, la partita la giochi meglio in 7/8 persone. Il problema è che in 7/8 titolari fai degli allenamenti di minore qualità durante la settimana, quindi arrivi meno preparato. Ecco, per quello, e da qui nasce la voglia di avere 10 giocatori, perché fai allenamenti più tosti. Però la partita in sé, io ricordo fior di squadroni, Ignis e Simmental compresi, che vincevano i campionati in 5. Sì, sì, e sì. Quindi certo erano altri ritmi, altri tempi e tutta un'altra roba. Quanto a Milano, invece, la partita che citava l'ascoltatore, che tu hai commentato per Sky Milano Treviso, brava Milano, grande cuore, quello che vuoi, però difficile trovare il confine tra i meriti di Milano e la prima Treviso di Repesa, squadra al momento rivedibile. Ma io tendo sempre a guardare i meriti, perché comunque una squadra che vince in quel modo lì, con quelle cose lì, con quelle difficoltà lì, perché comunque se arrivi in spogliatoio dici, come, non ci sono Bulleri e Petravi, insomma non è proprio semplice da gestire, e quindi i meriti sono loro, tant'è vero che hanno fatto una partita molto accorta, molto, fra l'altro cominciando anche male, quindi poteva anche essere scioccante l'inizio, E quindi per conto mio, tutto sommato, e considerando anche, diciamo così, la rinascita di Hall dovuta alle polemiche di settimana, o perlomeno polemiche sottaciute, ma comunque reali, di settimana, è il maggior minutaggio, tutte cose che ci stanno. Poi comunque io vedo in Milano un gruppo che sta bene insieme, e questo è già un grosso passo avanti, perché quando vedo parlarsi, congratularsi, abbracciarsi, darsi quelle pettate in alto come fanno adesso i giocatori, vuol dire che il gruppo è compatto, è coeso, come si dice, e quindi già questa è una buona base di inizio. Poi è chiaro che la Benetton era la prima partita di Repeja, indubbiamente ha giocato con molti minuti da Kuz playmaker, che adesso vedrà se continuare o no, lo sa lui meglio di tutti. Sabato è stato abbastanza dannoso per la squadra. Sì, questo sì, sempre per i playmaker, scusa Flavio, cioè, l'equivoco a Treviso è chiaramente Daniel Hackett, no? Che era un equivoco con Vitucci, a maggior ragione adesso. Ha giocato 4 minuti e mezzo nella prima di Repeja, giocatore su cui Treviso ha puntato molto, anche molti soldi. Tratta di vedere adesso che quale ruolo avrà in questa squadra. Bah, io mi auguro che abbia un ruolo preponderante o perlomeno incidente, perché forse Daniel soffre dell'equivoco, cioè lui viene visto come il giocatore del vivaio, e invece no, il giocatore del college. Sì, quindi sì. Se l'anno scorso Jamon Gordon e chi altri, adesso non mi vengono i nomi, a Cantù, a Caserta, c'erano playmaker titolari che erano rookie, lui è altrettanto, però è, come dire, riconosciuto come ragazzo che viene dalle giovanili, invece no. E quindi comunque dovrà guadagnarsi lui il posto, perché Yasmin Repeša non ha mai né negato né regalato niente a nessuno, e quindi se lo meriterà giocherà lui. Maurizio, provincia di Torino. Buongiorno. Buongiorno Maurizio. È stato possibile fare un discorso sulle coppe europee di basket? Ma certo. Io sono sempre stato un appassionato del basket, certo, fino dai mitici anni 80, tipo Capodistria. Sì. Mi ricordo delle partite pazzesche, Partizan, Bosna, che per vedere un tiro sbagliato dovevi aspettare 20 minuti. Sì. No, volevo un attimino commentare, ecco, le imprese, per esempio del Partizan, che va ad Atene, sente il miglior gioco pivot e va a sbancare, no? Uh-huh. La Stella Rossa va a giocare senza il miglior giocatore Dragicevic in Cecoslovacchia, anche lì fuori casa, lì. Cioè, dire, anche la scuola tecnica serna, insomma, dimostra che con squadre senza giocatori stranieri di poter fare comunque dei ottimi, ottimi risultati. Non so cosa ne pensate voi. Per quanto mi riguarda, sfondo una porta aperta. A proposito, Dragicevic è il nuovo acquisto della Lottomatica Roma. Prima giornata delle top 16, che è sempre un enigma, è franco, però. Sì. Beh, è un enigma che, però, sai, dovendo giocare solo 6 partite, devi risolvere in fretta. Sì, eh. Assolutamente. Non hai molto tempo. Siccome poi in quel girone lì, presumibilmente il Marussi, che è la quarta squadra, farà 0-6, ecco che adesso se la giocano tutte con i confronti diretti. Ed è vero che il Panathinaikos può andare a vincere a Belgrado, però intanto ha perso in casa, quindi insomma comincia a diventare più complicata per i campioni uscenti, perché insomma è più difficile adesso. Non vorrei essere costretto ad andare a vincere al Pionier, non so tu. No, assolutamente. Tutto sommato si può dire proprio che la vittoria di Siena acquisti più valore, Franco, proprio perché perdere in casa la prima partita è sempre abbastanza inopinato. Ah no, sei già di rincorsa, non c'è verso, anzi è brutto giocare la prima in casa. Però una volta che l'hai vinta, adesso ce l'avranno in casa la prima gli altri, quindi c'è un piccolo vantaggio psicologico. Dunque adesso borsa, subito dopo riprendiamo Luca da Como e analizzeremo più attentamente la prima vittoria di Siena in questa top 16. Ieri grande partita di Hawkins, grande partita lungo tutti i 40 minuti, secondo tempo straordinario di Harry Domercant, il migliore credo si sia visto con la maglietta di Siena addosso. Palla spicchi. Riprendiamo da Como e da Luca. Buongiorno Luca. Salve. Buongiorno a voi. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Di cosa parliamo? Di Cantù? Che... No. No. No, voglio fare due domande semplici. Una, prego. Permetto che sono un tifoso di calcio, però ammiro molto la pallacanestro, mi piace molto guardarla, sì, da sempre. Una domanda su Belinelli, perché mi sembra che rispetto alle valutazioni che date di Gallinari e Bargnani, mi sembra che lui sia un livello sotto, ma perché gli manca qualcosa o perché ci vuole ancora tempo? E questa è una. E la seconda, visto che voi siete molto più esperti di me, se potete darmi qualche notizia sulla Fortitudo, se le basi che stanno ponendo nel campionato che sta facendo permetteranno una risalita in Serie A. visto che è una squadra che mi piaceva molto in passato. Sì, certo, le basi dipendono dalla società più che dalla squadra. È chiaro che questa squadra è, non dico imbattibile, ma quasi nel campionato che sta facendo, però le basi non le devono mettere quei giocatori in campo, le basi deve mettere qualcun altro fuori dal campo, e mi sembra che lì siamo ancora sulla carta, siamo però ancora partono da un 4.000-4.500 a partita, quella è una bella partenza, vuol dire che intanto il basket ha bisogno della fortitudo, così come la fortitudo ha bisogno del basket. C'è ombra di dubbio, Franco, c'è ombra di dubbio, perché quella, secondo me, ma al di là di ogni retorica, di tutte queste cose, quella è la fortitudo. Ma insomma, per cosa giochiamo e lavoriamo? Per quella gente lì, e mica per altro. Non c'è dubbio. Quanto a Belinelli? Belinelli si dice... Beh, Belinelli, contrariamente a Bargnani e a Gallinari, di cui abbiamo ampiamente già parlato, ha che ha molta concorrenza, perché di quel tipo di giocatori ce ne sono molti, e quindi trovare la differenza che può fare uno rispetto all'altro è più difficile. Lui però ha, a mio modo di vedere, un grosso merito che assimilerei niente proprio di meno che a Drazen Petrovic. Quello di aver fatto un inizio di carriera NBA allucinante, ovvero sia messo nel terzo quintetto in allenamento, non vedere mai il campo, eccetera, però avere avuto gli attributi di resistere, di cambiare società come fece a suo tempo Drazen da Portland a New Jersey, e poi far vedere il suo valore. Adesso probabilmente Drazen era un'altra roba, intanto perché era un altro ruolo e quindi aveva in mano la partita e non la doveva, in un certo senso, fra virgolette, subire, come Belinelli, che deve ricevere la palla, non portarla lui. Però e poi Mozart del basket e Petrovic e nessun altro nella storia del mondo, però devo dire che sta seguendo quelle orme, e tanto di cappello per il carattere di Marco. Andiamo a Fermo adesso, Giro d'Italia cestistico. Giuliano, poi lo fai anche tu, Giro d'Italia, vai ad Avellino alle Final Four, alle Final Eight di Coppa Italia, finalmente te l'hanno detto. Sì, sì, finalmente lo so. Intanto le Final Eight sono un grande evento. Quindi... Ma che te l'abbiano detto, perché non si sapeva ancora. C'era no. Beh, prima o poi eravamo a metà fra Linate e la stazione centrale. Sì. No, ovviamente questa è sotto forma di battuta, ma il pasticciaccio dell'anno, secondo me, quello di queste Final Eight, che Avellino... È come Gallinari, secondo violino, il secondo pasticciaccio, perché resta Napoli. Come Horse Category, è come Tourmalet. Esatto. Giuliano Fermo, buongiorno. Buongiorno, sono Giuliano. Sì, dica. Senti, volevo parlare di questi ragazzi giovani, in particolar modo della Sutor Montegranaro, sì, premiata. E, ossia, questi sono tutti ragazzi, non si parla mai, si parla sempre di Siena, bellissima squadra, golo quando vedo il basket, tutti stranieri, Milano, Roma, tutti stranieri, benissimo. Questo è il futuro del nostro basket, no? Questi ragazzini, è il futuro del nostro basket, non se ne parla mai, ossia, sono dei giovani abbandonati, lasciati lì, e il nostro allenatore li allena in modo egregio. Ci stanno delle buone vittorie, delle belle cose, eccetera. Però andiamo sempre di questi campioni. Sì, no, sì. Lei ha ragione, tolte le punte di vittimismo, perché non ci stanno. E soprattutto sul fatto, per esempio, che a Milano e Roma ci siano pochi italiani, possiamo parlarne. Voglio dire, mi pare che sia a Milano che a Roma di italiani ce ne siano. Adesso magari a Roma fanno un po' di sfoltitura della rosa, però gli italiani ci sono. A proposito di Montegranaro, Robert Tait, che non giocava praticamente mai, è andato a Caserta a sostituire l'infortunato Bowers. Quindi questa è notizia. È però vero che a Montegranaro, gli italiani ci sono e sono molto giovani, e su quelli hanno costruito lo zocco della squadra. Beh, uno per tutti è Cinciarini, che mi piace, è diventato giocatore di grande personalità, di grande non cavaliero, presenza. Beh, il cavaliere è già meno giovane, eppure è un ragazzo, è uno di quei tipi di giocatori che non fanno del talento la loro forza, ma dell'intelligenza e della costanza, della perseveranza, della dedizione, e quindi sono ancora più ammirevoli. Quindi è chiaro che quando si parla di Montegranaro, con tutto il piacere del mondo, parliamo dei giovani di Montegranaro, che peraltro ha come leader, è l'ultimo, quello che ha fatto il canestro della vittoria, un non italiano, che è Brunner, che è il giocatore, uno dei miei preferiti, ecco, bravo. Non soltanto per il nostro gentilissimo ascoltatore, se pensa che noi abbiamo delle preferenze passaportistiche, credo che sia abbastanza fuori strada, perché a noi interessa il bravo giocatore di basket. Bravo. Se è italiano è meglio, ma se è bravo è meglio ancora. Non c'è dubbio, i giocatori di basket si distinguono in bravi e... Esatto, esatto. Bravi e no, bravi e no. A proposito, facciamo un gioco? Avete voglia? 800240024, le abbiamo viste tutte fin qui, fine del girone d'andata. Oscar contro Oscar, vi piace? Oscar contro Oscar. Sulla miglior squadra, pochi dubbi. Sì, sì, sì, direi assolutamente di sì. Sulla peggiore, in teoria, ci sono pochi dubbi, ma non è neanche colpa loro. Ma dobbiamo togliere Siena da tutte queste categorie. Togliamo Siena e Napoli, l'Oscar possiamo giocarla. No, appunto, esatto. Perché, esatto, per esempio, miglior allenatore, Pianigiani, ok, va bene, ma si sa. È come la squadra. Io dico Sacripanti. Beh, certo, seconda squadra è messa lì, è appena arrivato, ha messo subito insieme un gruppo che non si conosceva, non c'è dubbio lui. Non sei d'accordo? Sì, sì, menzione anche per Trinchieri, che sta facendo un bel lavoro a Cantù. Poi ma ci sono tante menzioni. C'è Becchi che lavora. Se dobbiamo essere crudeli, fare un nome solo è quello. Se no, sì, devo dire la verità, l'ho detto prima, sono tutti bravi allenatori italiani. E lo ribadisco. Il mio contro Oscar è l'Ottomatica Roma. Anche il mio. Penso ci siano poche discussioni anche su questo. Sempre per questioni di rapporto qualità-prezzo, no? Americano ti è piaciuto di più? L'americano? Però bisognava... Usa Naso, Gary Neal, butto lì. O c'è qualcun altro? No, direi che... Chiedi a lui, che intanto ci penso. Il miglior americano che... è una brutta domanda questa. Ma siete impreparati. No. Miglior italiano anche qui? Credo che sia quello con la maglia di Biella. Che Pianigiani ha detto può diventare giocatore di livello europeo. Sì, qui direi che non ci sono pochi dubbi. Radori senza dubbio per come è migliorato. Non tanto per i punti che fa, ma per tutto quello che fa... intorno ai canestri che segna. Invece come miglior americano, adesso ti do questa dritta qua, io dico che ho grandissima ammirazione quest'anno per David Hawkins, per come ha saputo trasformarsi. Bravissimo. Perché da quel bombardino percussionista che era, diventato giocatore che, oltre ad avere dato una dimensione difensivistica ancora maggiore alla squadra di Siena, si è adattato a un gioco che non era suo negli ultimi anni. Bravissimo. Certo, c'è da dire una roba, che gioca in una squadra che stravince tutte le partite, però siccome l'abbiamo visto giocare ieri contro il Maccabi e non era così facile, vuol dire che è così lui. Mi piace molto Gary Neal, sinceramente, perché lo trovo molto elegante, devo dire. Bisogna vedere quanto sia decisivo come giocatore. Per qualche partita di Treviso lo è stato. Come italiano mi piace anche parlare di Fabio Di Bella, che credo abbia trovato quest'anno una dimensione anche di realizzazione. Sì, bravo, sì. Che non era sua propria delle stagioni. Beh, allora passate. Se vogliamo restare lì, anche Ere ha fatto una gran girone d'andata. Se comunque il coach, non a caso, ha fatto un'osservazione molto, molto interessante su David Hawkins. Nella metà difensiva del campo è diventato un valore aggiunto. Io aggiungo, secondo me, alla fine dell'anno, facciamo i conti sul non statistici, ma di rendimento e di impatto. Siena non avrà sentito più di tanto la mancanza di Kaukenas. Secondo me l'ha rinforzato, lì si è rinforzata. Cioè lì è stata una scelta più o meno ad hoc. Ok, Rimantas, vai a Madrid, vacci pure, magari gli hanno anche dato dei soldi, non lo so. Intanto io mi sono preso questo qua, che del resto Minucci, devo dire, se c'è un segreto della supremazia di Siena, perché Minucci sta facendo delle operazioni di mercato ormai da anni tutte azzeccate. Ecco, però Franco, volevo chiederti questo: parlavamo di Siena in proiezione Eurolega, non ti pare che forse manchi un investimento, quel famoso grosso centrone lì sotto, che possa in qualche modo giocare per esempio contro Pekovic, se dovesse capitare il Panathinaikos? Partite contro il Barcellona, Siena fisicamente ha abbastanza subito anche da quel punto di vista. Sì, può essere, anzi è probabilmente il punto cruciale della questione europea per Siena, ancorché Eze sia un eccellente giocatore e Lavrinovic sia di quel livello lì, perché è di quel livello lì, però evidentemente fanno molta fatica. Adesso andremo a leggere quest'anno se sarà così, magari il rinforzo fuori canestro con Hawkins e in regia con Zizis, che permette a McIntyre di arrivare più fresco ai playoff e di fare tutto quello che può fare nelle eventuali 5 partite. L'anno scorso ricordiamoci che fece gara 2 McIntyre in maniera formidabile, gara 3 ovviamente ne pagò le conseguenze. Quest'anno magari con la possibilità di riposare qualche minuto in più con Zizi scambia, vabbè. Ma a parte quello, per tornare alla tua domanda che è molto ben posta, indubbiamente per il momento Vasquez da una parte, Ndong dall'altra per il Barcellona, Pekovic, adesso hanno preso anche Islip che peraltro non è in quel ruolo lì ma comunque ce l'hanno, insomma sono giocatori di una grandezza fisica diversa. Non a caso il Partizan ha vinto l'altro giorno ad Atene, perché uno ha giocato una grandissima difesa ed è arrivato un solo pallone a Pekovic in tutto il quarto periodo. Due, perché Vranes, che è un giocatore naturalmente non di altissimo livello, ma essendo alto 3,18 m, ha messo in difficoltà Pekovic, e questo insomma conta. Per chiudere, prima del traffico, sulla storiella dei contro Oscar, invece il peggior italiano non è una risposta di comodo, ma è il contro Oscar è per tutti quelli che sono tanti, purtroppo, tutti quelli che si arrendono e che accettano alla fine di essere comprimari. Ce ne sono troppi, secondo me, nel nostro campionato. Ma io preferisco, sì, hai ragione, sono quelli arrendevoli, diciamo così. Così come non sopporto quelli che vogliono giocare per statuto, cioè siccome sono italiano, esatto, devo giocare io. Esatto. Però sono pochi, onestamente, sono tutti bravissimi ragazzi, bravissimi giocatori, professionisti seri. Onestamente diciamo che non è la migliore classe tecnica come quella degli allenatori, quella italiana, ma ci è vicino perché sono tutti bravi ragazzi. Palla spicchi. Siamo addirittura all'arrivo, ultimo quarto del nostro programma, sempre con noi naturalmente Franco Casalini. Se volete 800 24 00 salvo supplementari. Salvo supplementari e rigori. No, volevo parlare ancora un attimo di Siena e della partita di ieri sera. Abbiamo detto di Hawkins, abbiamo detto di Domerkant, abbiamo detto di una Siena che comunque aveva la faccia tesa, onestamente, ieri con per aprire. Non poteva non essere che essere così. Questo top 16, nonostante il Maccabi più di minore qualità, mettiamola così, che io ricordi, forse. Beh, rispetto ricordi all'anno scorso, due anni fa, è in tendenza a crescere. Era più deboluccio l'anno scorso, no, due anni fa fece la finale, figuriamoci, sì. Però adesso sta ricrescendo, perché Wisniewski mi piace molto, Dor Fischer anche, Anderson è un eccellente giocatore, quindi direi che sta ricrescendo. Comunque sai, Siena, l'hai ricordato tu prima, non l'aveva mai battuta nella storia di Maccabi, insomma non può non esserci un retropensiero, quindi per la prima volta era sempre da affrontare, quindi è stato difficile e sono stati bravi a farlo. Sentiamo anche il pensiero di un signore che conosci bene. Chi l'è? Flavio Tranquillo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, Siena che approccia come doveva questo secondo round nel quale i risultati dicono che insomma la partita più complicata è forse la prima, una delle più complicate è la prima, basta chiedere allo stesso Real Madrid che ha sofferto moltissimo col Marussi, basta chiedere al Partizan che ha perso in casa. Ti aspettavi una partita come quella di ieri sera per aprire la top 16 di Siena? Mi aspettavo una partita difficile, perché è difficile prima in casa senza margine di errore contro una squadra che tutti ritengono magari inferiore a quello che realmente è, perché in attacco soprattutto mi sembra veramente una squadra di buonissimo livello europeo, ci sono tutti gli ingredienti per fare molta fatica che è stata fatta. Torna a merito di Siena far fatica e vincere, perché quando va tutto bene vincono tutti, e quando c'è qualche topico in più, come si dice in inglese o come direbbe Franco, che allora si fa un po' più fatica. Si vede già sul cammino di Siena però la curva a gomito che c'era stata l'anno scorso. Partita con Real Madrid, poi ovviamente dopo quella con l'FS Pilsen che sarà la prossima, partita con Real Madrid, poi Final 8 di Coppa Italia e poi di nuovo Real Madrid. L'anno scorso, al cioè, posto del nome Real, c'era Cesca, esatto, sempre Ettore Messina. Curva a gomito quella sul cammino di Siena. Franco, cosa ne dici? Sarà difficile, non avrà la stessa tensione, pressione magari sì, ma tensione dell'anno scorso, perché l'anno scorso doveva vincere la Coppa Italia. Quest'anno, a parte il fatto che forse ha meno rivali e meno difficoltà, ma a parte questa è una considerazione sciocca da parte mia, però non ha il dovere morale per tutta la sienesità di doverla vincere, quindi ha meno tensione, però vai là, giochi tre partite dure, possibili, difficili, pesanti, a cavallo di Madrid-Madrid, che peraltro non è Cesca-Cesca, perché l'anno scorso il Cesca non è il Madrid di quest'anno, quindi è un pochino meglio sulla carta, poi... E comunque sì. Sarà durissima comunque. Però Flavio, io resto convinto del fatto che Siena buona parte della sua stagione europea se la sia giocata proprio in quella curva gomito l'anno scorso, quando batté il Cesca, poi vinse la Coppa Italia e poi perse una differenza canestri che sembrava una montagna a favore di Siena contro il Cesca, di qui l'accoppiamento eccetera eccetera, fine della storia. Sì, lì e naturalmente anche perdendo a Zagabria, perché se non avesse perso a Zagabria in una partita che ovviamente era la sua portata, allora forse sarebbe bastata la prima vittoria contro il Cesca per avere una vittoria in più e sarebbe finita lì. Però indipendentemente da questo rivangare il passato, direi che la doppia sfida col Cesca con in mezzo alla Coppa Italia dell'anno scorso ci dice che la spesa emotiva di questo gruppo è terrificante, nel senso che non è un gruppo che possa vivere solo di talento o solo col talento, deve essere sempre al 500% del suo stato mentale. Lo dimostra secondo me il fatto che lo scorso anno, quando ha avuto la prima vera grande difficoltà della stagione nel tempo a Mosca, non è che ha avuto un calo, ha avuto un tracollo, improvvisamente per 5 minuti non hanno più giocato e lì hanno accumulato e passapunti che poi alla fine sono risultati fatali per l'incrocio con Panathinaikos eccetera eccetera. Il punto è quello: emotivamente e fisicamente si può reggere un ciclo del genere? Io credo che per farlo bisogna essere riusciti prima a risparmiare qualche energia. Certo, il campionato italiano ha aiutato, ma finché non vediamo quel ciclo non lo possiamo sapere. Ed è il discorso che sei tu prima, Franco, a proposito di McIntyre, Zizis, no? Sì, io credo che Zizis sia fondamentale. Può far risparmiare benzina a McIntyre, peraltro ieri sera il peggior McIntyre che si è visto. Se ho visto il miglior Domercant con la canottiera di Siena, ieri ho visto il peggior McIntyre, vabbè, ma questo è soltanto una... ovviamente un episodio, quell'uno su 10 al tiro, quel fatto di non saper neanche guidare la partita come di solito sa fare. Sì, difatti l'1 su 10 può essere episodico, speriamo che sia così. Non è la prima partita bruttarella che fa quest'anno il buon Mac, però resta uno dei migliori playmaker d'Europa, se non il miglior playmaker d'Europa, quindi fino a prova contraria il fatto che Zizis possa dargli dei cambi di qualità e dei minuti anche in partite non necessariamente già vinte vuol dire averlo più fresco quando conta e quando serve. Io vorrei approfittare, Carlo, della presenza ovviamente di Franco Casalini, ma anche il collegamento di Flavio Tranquillo, perché domenica mattina c'è Milano-Varese, una grande classica del campionato italiano. Piccolo inciso col blocco del traffico, quindi non sarà facilissimo arrivare al forum. 600 presenze per Giacomo Galanda, insomma una partita che ha sempre un grandissimo appeal. Ma più che altro, secondo me è una puntura di adrenalina di cui c'è assolutamente bisogno per la nostra pallacanestro. Ma guarda, Milano-Varese affonda le sue origini nella storia del basket moderno, perché è dagli anni 60 che sono le due che si giocano il titolo o andata e ritorno o con lo spareggio a fine campionato, allora inedito per un playoff, quindi è da sempre così. Purtroppo negli ultimi anni, quando anche i livelli fossero simili, quindi non una più forte di quell'altra, è difficile che si parli di vertice per loro due, però resta questo grande fascino che io auguro possa essere rinnovato, e so che Flavio farà di tutto per rinnovare questo fascino antico in modo tale che si riacquisti questa tradizione, questa sensazione, questa atmosfera irripetibile di un tempo. Flavio. Ma direi che di ieri ha parlato Franco, dell'oggi ne parliamo domenica, sperando che sia una partita interessante, ma naturalmente abbiamo il controllo che abbiamo. Io vorrei lanciare un po' un sassolino sul domani. Non è lontanissima nel tempo una polemica o simil polemica che sostanzialmente si è rifatta alla pubblicità che ha fatto di Dino Meneghin, ha sancito in Dino Meneghin l'unico personaggio riconoscibile o il personaggio più riconoscibile della pallacanestro italiana in questo momento. C'è Milano-Varese, la domanda è: l'anno prossimo, tra 5 anni e tra 10 anni, abbiamo ancora Dino Meneghin e quella Milano-Varese o una delle mille Milano-Varese giocate metà con Varese, metà con Milano, da Dino come punto di riferimento, oppure facciamo anche qualcosa con le nostre gambe, visto che sarebbe giunto il momento? Domandone, eh? Domandone non di facilissima risposta. Flavio, piuttosto, visto che sarete compagno di viaggio, la domanda la faccio anche a te, come l'ho fatta a Franco. Sei contento di aver scoperto finalmente dove andrai per vedere alzare la Coppa Italia? Contento, scusami? Di sapere finalmente dove andrai a vedere e commentare le Final Eight di Coppa Italia. Né contento né scontento, se devo dire la verità. Però almeno lo sai. Un po', sì, no, almeno lo so e questo è un vantaggio. Un po' basito, onestamente, dal vedere che tutto quello che valeva fino a lunedì alle, non so, sì, 4-1, dalle 4 è completamente scomparso. Ma non perché bisogna farne una questione o un problema. Però onestamente, se una vicenda del genere non fa esplodere delle contraddizioni, e vedo che non le fa esplodere, è chiaro che va benissimo giocare ad Avellino, è bellissimo giocare ad Avellino, è bellissimo sapere dove uno deve prenotare o dove verrà giocata la Coppa Italia, ma prima sono successe una serie di cose e la temporizzazione di tutta questa serie di cose, di assemblea eccetera eccetera, dovrebbe forse far porre qualche domanda a qualcuno, anzi io ne sono abbastanza sicuro, ma evidentemente sono in posizione largamente minoritaria. Sì, compresa la storia dei bussolotti e del sorteggio che ha fatto inviperire, giustamente, con tutte le ragioni del mondo, secondo me Montegranaro, perché di certezze in questo momento non ce ne sono e quindi se non ci sono certezze anche la credibilità fa fatica a decollare. Grazie Flavio, alla prossima, ci sentiamo domenica naturalmente. A voi. Grazie Flavio, tranquillo. Ciao Flavio. Facciamo appena in tempo a parlare rapidamente con Gianni da Pesaro. Gianni, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ascolti, no, così, dare una mia personale esperienza. Insomma, diciamo che siamo stati a Boston adesso per Natale, abbiamo assistito una partita dell'NBA tra i Boston Celtics e i Toronto Raptors. Siccome c'era il nostro amato italiano lì, sì, allora è capitata l'occasione di andare a vedere. Meglio quello o la Scavolini di Dal Monte? Meglio quello o la Scavolini di Dal Monte? No, sicuramente siamo su due pianeti totalmente diversi. Altro non sport, c'è paragone. Però. Altro sport, altro gioco. Grazie Gianni, grazie Franco. Buon lavoro. Alla grazie prossima. A voi, grazie, è stato un piacere come al solito. Ti aspettiamo quanto prima. Grazie a Flavio Suardi, grazie a Filippo Aureggi in redazione, in regia, Franco Piantanida in redazione. Con lo sport domani alle 5 riparleremo. Avremo tutto il tempo per parlare di Zaccheroni, Ferrara, Juventus e quanto ce n'è. A domani.